a distanza, MC da caccia, con effa i messaggeri sulla traccia, ti spezzo rime dal sapore inconfondibile, e questa strofa nuova ne è una prova inconfutabile. C'ho il flow psicolabile come Norman Bates, chiuditi in camera e rima sui beat breaks, canta nelle jam, è inutile mirare alla top ten se non sai cosa vuol dire represent. Con il piede nella fossa, le ossa rosse caporato, rasso io sul mio io, e tu ridi, stai dormendo, vaso rotto di Pandora, dimmi come, dove, quando, dal tallone, piedi, guardo tuo ginocchio, sale nell'interno, coscia, vita, fianchi, aperto, braccia, collo, teschio, ora finisco e me la rischio, la scopella è entrato penne, io la rima ci attiriamo come un quadro con Lupin, improvviso in modo zero, se il mio viso in viso altrista, sono sincero, la serata da jazzista, tu sei nave, io corsaro, si fate anche a seguirmi, sono spasmi, lo capisco, mi esibisco, la finisco, lascio stare, ricomincio, sono asceto al gusto rancido, sono acido, acido, vernice fresca, ad una tela asciutta e piatta, sono stata più chinato stile mecca, il mio testo è più recuozzo di una tosse quando è secca, perché io non ho come flow psicolabile come Norman Bates, come flow psicolabile come Norman Bates, mi chiudo in camera che brucio tutti quanti i miei mixtape, in camera che brucio tutti quanti i miei mixtape, non ho flow psicolabile come Norman Bates, come flow psicolabile come Norman Bates, è inutile che canto nelle jam che non so cosa vuol dire il rap presente, come flow psicolabile come Norman Bates, come flow psicolabile come Norman Bates, mi chiudo in camera che brucio tutti quanti i miei mixtape, in camera. Flop psicolabile come Norman Bates, è inutile che canto nelle jam che non so cosa vuol dire, ma che e contrasta con un beat che non resta nella testa, non ho il flow ma ti interrò, io sono muto come l'H e ritorno del ricchione sulla traccia, qui ci manca qualche cosa come canna, solo ti lacci la H, mi metto la divisa coi bermuda, esco di casa per la resa, mi sa che mi pesa, no le fusa, mo perciò non so cosa farò, cosa dirò, per chi, per Dio, noterò ed annoterò, solamente notendo, conto vaglia liscia dopo ferro ma da stiro, mi travestirò da Pierrot e combinò, prenderò ed io, vivendo il culo per avere la mia autonomia, così sia, se nel frigo solo uomo, con ricotta, se il resto è serestia, mi ritiro, mi riattivo, mi retiri, mi ritiro, mi le sciro, non ho cuore, prendo palle al volo, le ritiro, perché non ho flow psicolabile come Norman Bates, come la pola ce l'ho, mi chiudo in camera e brucio tutti quanti i miei mixtape, mi chiudo in camera e brucio tutti quanti i miei mixtape, non ho flow psicolabile come Norman Bates, non ho flow psicolabile come Norman Bates, inutile che canto nelle jam che non so cosa vuol dire rappresent, come Norman Bates, è inutile che canto nelle jam che non so cosa vuol dire il rappresent, non è flow psicolabile come Norman Bates, mi chiudo in camera e brucio tutti quanti i miei mixtape, in camera e brucio tutti quanti i miei mixtape, non ho flow psicolabile come Norman Bates, è inutile che canto nelle jam che non so cosa vuol dire il rappresent, è inutile che canto nelle jam che non so cosa vuol dire il rappresent.